Mi sembravano un po' annoiati. È una cosa che capita a tutti, eh? Che capita spesso anche a me. Solo che non ho un bar dove andare a fare quattro chiacchiere. E soprattutto non ho un repertorio di auto distrutte da raccontare. E secondo me, avere un metodo semplice come quello per combattere la noia è una buona soluzione. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. È un venerdì, è il 3 di giugno del 2011. Questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. Ecco, magari sta succedendo proprio in questo momento. Magari non avete fatto il ponte. Avete lavorato ieri. E quindi siete rimasti in città. E magari adesso, proprio in questo momento, alle 4 del pomeriggio, state preparando le valigie. O state comprando il biglietto del treno. O magari invece siete già in auto. E state tornando verso il vostro paese. La vostra città. La vostra campagna. Chiudete la casa. Salite sull'auto. E ascoltando la radio, prendete l'autostrada sperando che quello che state ascoltando vi alleggerisca un po' il viaggio. Magari invece salite sul treno, mettete le cuffie per non ascoltare il tizio di fianco a voi che parla ad alta voce dentro al suo telefonino per tutto il tempo. E che siate in auto, in treno o in traghetto, ecco, in questo preciso momento cominciate ad assaporare quel sapore. Lo sentite già, come una specie di retrogusto dolce in fondo alla bocca. Il momento in cui farete la cosa che fate quando tornate a casa. Quella cosa che vi fa sentire davvero a casa. Perché tra tutte le cose che vi aspettano in questo fine settimana, ce n'è una, o al massimo due, che voi aspettate con ansia. È la cosa in cui vi rifugiate quando in ufficio oppure nel vostro appartamento in città avete voglia di immaginarvi altrove. Un luogo, un sapore, un suono o un odore che trovate lì e solamente lì, a casa vostra. Una sensazione che ha quel sapore di casa, che vi fa stare meglio, che vi fa tornare indietro o magari vi fa andare avanti nel tempo. E sorridete anche mentre ci pensate, adesso, che siete in auto o in treno, mentre pensate alla passeggiata in cima al monte sopra il paese o al gelato in quella pasticceria, alle chiacchiere che farete con il barbiere, con il macellaio o alla partita di briscola al bar. E quella, immaginate quella voce, la voce del macellaio, che vi domanda che parte del filetto volete e intanto vi chiede come vanno le cose lontano da lì. Oppure immaginate l'acqua gelida che vi colpisce quando vi tufferete nel lago, quello che è in fondo al bosco. Oppure a quel rito che avete, quando siete in acqua, di girarvi di spalle e guardare il cielo, sospesi. Immaginate sul palato il sapore di quel dolce che sa fare solo vostra zia e che vi fa ogni volta che tornate a casa, perché in fondo anche a lei piace, anche lei sta meglio nel vedervelo mangiare. Immaginate tutto questo. Immaginatelo ora che siete in viaggio e state tornando a casa. E mentre lo fate, prendete in mano il telefono e raccontatemelo, perché oggi io sono qui. E il numero è quello, è 800240024 oppure 349-238-6666. Avete capito di cosa parlo? Avete capito? Tutti quelli che hanno un posto dove tornare, che è un paese, beh, ma il paese ha quell'alone romantico, ma anche se è una cittadina di provincia o anche se è semplicemente la vostra città, che non è la città in cui vivete, in cui lavorate, sapete di cosa sto parlando. È quella cosa che in qualche modo vi fa sentire a casa vostra. 800240024 349-238-6666. Prima di leggervi alcuni dei messaggi che sono arrivati sul profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui, volevo ricordarvi che non solo il 23 di giugno c'è la serata finale di Io sono qui, ma che finalmente tutte le foto che sono arrivate, quelle che io racconto ogni giorno più o meno dopo la borsa, no? Nel vostro Io sono qui personale, ecco, tutte quelle foto, perdonatemi, in quella serata avranno un senso. Non vi spiego bene il perché. Ancora stiamo esattamente capendo come usarle. Ma se avete scattato una foto, se me l'avete inviata, venite giovedì 23 giugno, perché finalmente la rivedrete. Magari alle mie spalle, magari sulla mia faccia, non so ancora esattamente come. Però con Bonini, Viola e anche con Paolino Corloni stiamo cercando di capire come usarle e sicuramente le vedrete. Il personale Io sono qui, degli ascoltatori di Io sono qui. Vi ricordo giovedì 23 giugno 2011 alle 9 alla Sala Collina e in via Monterosa 91. Quelle piccole cose che mi fanno sentire a casa, invece, Francesco, prendere la bici, andare in cima al monte e guardare giù il tramonto sul lago. C'è del romanticismo qui, Francesco, occhio. Occhio perché è stato troppo romanticismo, poi causa dei problemi. Carlitos, ho capito che innanzitutto perché mi ha scritto, io avevo detto che era argentino, l'ho detto no, sono colombiano, e qui mi ricordo che cosa vuol dire per lui tornare in Colombia, e questa è veramente all'ennesima potenza, perché un conto è appunto se siete in macchina in questo momento e vi state sparando sti 100, 200 o 300 chilometri, un conto invece è pigliare un aereo e andare a Bogotà. E Carlitos dice: quando torno a Bogotà in Colombia, che è la mia città d'origine, la prima cosa che faccio e che mi fa sentire a casa è andare in uno di quei ristorantini che ci sono fuori dall'aeroporto e mangiarmi un'insalata di frutta tropicale. Tutti conoscono i ristorantini che sono fuori dall'aeroporto di Bogotà. Carlitos, fa una cosa, scattaci una foto e mandacela. Marco, mi capita di tornare spesso di recente al mio paese nel Monferrato. Mi fermo dai miei vecchi, che immagino non siano i suoi genitori, ma semplicemente le persone anziane del paese, e la sera cena a raccontarci le cose vecchie e nuove è sensazionale. E poi vedi che c'è chi torna a Milano, Susanna. Per Susanna sentirsi a casa e fare l'happy hour sui Navigli, e poi andare a guardare gli aerei a Malpensa, come quando ero piccola e papà mi portava con la bicicletta a vedere i 747. Mary, portare i miei figli a pescare nei laghi dove andavo io da piccola, in Ontario, e poi fare il pieno di donuts al Tim Hortons più vicino. Qui parliamo di cose che nessuno di noi probabilmente ha idea, a parte Tim Horton, sì, si parla di Canada, Ontario, Canada, certo, come il Quebec, è una regione del Canada. Il Tim Hortons invece è un po' tipo il 7-Eleven, no? E il donuts invece sono le ciambelline, no? So cos'è Dunkin' Donuts, ma il donuts sono, credo le ciambelline, va bene. 348 niente, vabbè, quando mi viene 349-238-6666, è l'8 dopo che mi confonde, poi non vedo mai il foglio attaccato sotto il vetro, oppure 800240024, la cosa che fate quando arrivate a casa. Il tutto perché? Perché l'altra sera, così, un po' a caso, ho preso e sono tornato a casa. Sì, sono tornato dopo la cena con Italo, dell'altra sera, sono andato a Romentino. Ecco, questa è una delle piccole libertà che capita di avere quando si vive da soli, o quando lo si è anche solo per brevi periodi. Sono passato da casa a Milano, ho preso un paio di cambi, sono salito in macchina e sono andato verso la campagna del Novarese. E per arrivarci ho fatto una strada assurda, che non è la più veloce e non è nemmeno la più breve. È una di quelle strade che farebbero impazzire il navigatore, perché lo obbligherebbe a cambiare percorso in continuazione. È una strada che gira intorno ai paesi, lascia fuori Novara, ci fa un giro intorno e poi torna verso il mio di paese. Ripeto, non cercatela, non è la più lunga, non è la più semplice, è solo una strada che mi piace. E non ho nemmeno dei ricordi legati a quelle zone. Ci passo solo perché ho voglia di passarci, tutto qui. Faccio Pavia, Voghera, Tortona, vado verso Vercelli e attraverso le risaie più risaie di tutte. E poi arrivo a Romentino. E lì su quella strada c'è un paese che si chiama Casalino, è a sud-ovest di Novara. E lì ci sono diversi edifici che hanno delle scritte antichissime sulle facciate. Hanno caratteri inconfondibili e parole che ricordano un'epoca che io ho solo studiato sui libri. L'aratro segna il solco. Credere, obbedire. Mi è sempre piaciuto vedere quelle scritte. Leggere delle parole su un libro e poi leggerlo su un muro fa una certa differenza. Ti dice che la storia è accaduta davvero, non è stata solo raccontata. Appena prima di arrivare a quelle scritte, la strada è stretta ed è piena di curve e c'è una piccola galleria. La cosa strana delle curve è che tu vedi l'inizio ma non vedi la fine e quindi non sai mai quando puoi raddrizzare il volante. Le gallerie invece a me piacciono. Mi piacciono molto. Non so se dovrebbero farmi un altro effetto, a qualcuno fanno paura. A me invece sembra che ti accompagnino dove devi andare. Perché quando è all'aperto, quando è libera, la strada non è solo la strada, cioè il cielo, i campi, hai le montagne se ci sono tutto intorno. E tu devi proseguire, ovviamente, perché stai guidando magari a 100 all'ora, però vorresti rallentare un po', vorresti vedere meglio le cose. Il tetto di una casa che ti incuriosisce, una pianta gigantesca. Insomma, all'aperto la strada ti fa venire voglia di rallentare, di fermarti, di arrivare magari un po' più tardi dove stai andando. Nella galleria invece le macchine ci scorrono fluide, come l'acqua in un tubo. E poi il fondo della galleria sembra attirarti, sembra dirti avanti, per di qua. Poi la strada all'aperto è prevedibile, in lontananza vedi già tutto quello a cui ti stai avvicinando e lo metti a fuoco piano piano. La fine delle gallerie, invece, riserva sempre una sorpresa. Io ho anche una galleria preferita. È una che si trova sull'autostrada che va da Milano a Genova. Non saprei dire esattamente quale, perché mi sembrano tutte uguali. Lei però è diversa. E te ne accorgi solo dopo, all'uscita, visto che all'imbocco non sapresti distinguerla dalle altre. Quella galleria, però, a differenza di tutte, riserva una sorpresa. Una sorpresa che scopri nel momento in cui sei fuori. Quando il soffitto a semicerchio finisce di colpo e l'orizzonte ti arriva addosso ed è blu, ed è liscio, ed è d'acqua. C'era aria di festa ieri notte per le strade del mio paese. Ci sono arrivato verso l'una e c'era gente per strada, che mi è parsa una cosa magnifica. Mi sono fermato nella piazza centrale sotto alla statua di San Giovanni Battista. E ci sono tre bar che gravitano lì intorno: il bar Fontana, il bar Centrale e un altro bar di cui adesso sfugge il nome. Forse è cambiato nell'arco degli anni, invece gli altri due sono sempre stati lì. Non conoscevo nessuna delle persone che erano sedute in piazza. O forse le conoscevo ma non le riconoscevo e loro non hanno riconosciuto me. Mi sono seduto ad un tavolino vicino al bar. Il bar ormai era chiuso, però in paese si lasciano fuori sedie e tavolini, quindi ci si può sedere senza problemi. Era uno strano gruppo quello seduto accanto a me. Eterogeneo, insomma strano. C'era un signore di una cinquantina d'anni. Due ragazzi di 20, uno di 30, una ragazza bionda di età e trucco indefinibile. E poi ce n'era un'altra, coi capelli a caschetto e l'aria furba, attorno ai 25 anni. Parlavano di qualcuno che non era lì presente, anzi di una coppia, per l'esattezza. Dicevano che lui era un imbecille, che aveva buttato via un lavoro magnifico in Francia per tornare a stare in paese e tutto per colpa di quella stronza della sua fidanzata che lo cornifica pure. E lui lo sa, ma no, non lo sa, ma sì che lo sa ma fa finta di niente, ma tutti sanno che lei va con il tizio della videoteca, che pure è più giovane di lei, ma ha un figlio da una che sta a Trecate e che sta bene di famiglia, altrimenti lo avrebbe spennato vivo. In circa mezz'ora hanno passato in rassegna metà delle persone che vivono in paese e che hanno storie clandestine, ma anche no. Valeva un po' tutto. Valeva il lavoro, la salute, l'amore, pendenze con la giustizia, fallimenti sportivi, umani. La cosa strana però è che non c'era accanimento, non c'era cattiveria. C'era solo la voglia di dire delle cose, al buio della piazza davanti a un bar chiuso. Per un attimo ho addirittura temuto che si mettessero a parlare di qualcuno che conoscevo, o peggio, di qualcuno della mia famiglia. Quindi ho cercato di non ascoltare, ma non ci sono riuscito. E credo che qualche riferimento a qualche lontano cugino l'abbiano anche fatto, ma non era nulla di terribile. Poi a un certo punto hanno iniziato a parlare di incidenti d'auto. Uno dei due ventenni rideva e sosteneva di detenere il record assoluto di auto distrutte, con una Mercedes finita in un fosso, una BMW contro un albero e l'auto di un suo amico che ha sfondato un guardrail. Io l'ho guardato per cercare di capire se portava i segni di questa vita automobilistica travagliata, ma niente, a parte la faccia da scemo sembrava integro. Uno di loro ha chiesto che cosa avrebbero fatto il giorno dopo, quindi il tizio di 50 anni sosteneva che faceva una grigliata con la famiglia, invitava tutti, ma non mi parevano molto d'accordo. Poi la ragazza con l'aria furba a un certo punto ha detto che se ne andava a casa e il gruppo in un attimo si è dileguato. Li ho guardati mentre si allontanavano in direzioni diverse. Uno saliva su una bici, i due ventenni su una macchina e lì ho sperato che non guidasse il detentore dei record e gli altri a piedi. Mi sembravano un po' annoiati. È una cosa che capita a tutti, che capita spesso pure a me. Solo che non ho un bar dove andare a fare quattro chiacchiere e soprattutto non ho un repertorio di auto distrutte da raccontare. E secondo me avere un metodo semplice come quello per combattere la noia è una buona soluzione. Sono rimasto seduto sulla sedia di metallo del bar a cercare di sentire la noia che mi investiva, ma era troppo tardi. La noia arriva di giorno, quando in teoria si devono fare delle cose, ma non le si fanno. Settembre spesso ad aspettarti e giorni scarni tutti uguali. Fumavo 20 sigarette e grotto in gola e secca sete di te. Due cartoline, condoglianze e lo bastardo ci vediamo. L'adolescenza che spediti sulle mie tenebre incestuose. Sono entrato in casa dei miei, ma loro non c'erano. Ogni tanto si concedono qualche giro con amici. Stanno via 4-5 giorni. Secondo me dovrebbero farlo più spesso, perché alla fine sono sempre un po' più contenti di prima. Erano le 2 di notte, la casa mi sembrava più piccola di come me la ricordavo. È la casa in cui sono cresciuto e probabilmente è dovuto sempre allo stesso motivo, il fatto per cui mi sembrasse più piccola. Ed è che da bambini le cose appaiono più grandi di quanto non lo siano in realtà. Sono andato in cucina, ho aperto il frigo. È sempre un piacere aprire il frigorifero dei miei. Mia madre lo riempie come fosse la cella frigorifera di un ristorante. Ho preso un tè freddo, dei cracker e una busta di prosciutto crudo. Sono andato nel salotto dove c'è la TV. Mi sono buttato sul divano. Quello grande, quello soffice. Quello su cui di solito non ci si siede mai, perché poi a sprimacciare quei cuscini e farli tornare belli gonfi ci si mette mezza giornata. Ho mangiato il prosciutto una fetta alla volta, guardando un tizio alla TV che intervistava vecchi attori e vecchie attrici. L'ho fatto senza audio, però. Mi sembrava tutto ancora più surreale. Poi ho aperto la finestra e un attimo prima che abbassassi la zanzariera, nella stanza sono entrate almeno 3 zanzare. E sapevo già che quelle 3 zanzare mi avrebbero tormentato per tutta la notte. Il silenzio del mio paese è un silenzio attutito. È come se le strade, le case, i cortili fossero coperte da uno strato di bambagia. Si sente l'autostrada in lontananza, è un rumore lungo, inesauribile, come il fischio di un malato di enfisema. Qualche cicala appena fuori dal paese. I passi di qualcuno che cammina per la strada, di ritorno da non si sa dove. E poi il ronzio delle zanzare che mi avrebbero tormentato. E mentre me ne stavo lì, sul divano, a non fare nulla, mi sono accorto che la noia non era poi così male. Che stare seduti a non fare nulla, anche se sembrava controproducente, anche se sarebbe stato meglio andare a dormire, ad esempio, anche se non stavo riflettendo su nulla di preciso, era un modo per starmi un po' più vicino. E non ho capito niente di eclatante, eh? Non ho avuto illuminazioni particolari, non ho pensato a cose utili, non sono diventato una persona migliore. Sono rimasto immerso nella noia di un divano, parcheggiato nel salotto di una casa in un paese della provincia del nord, e me la sono proprio goduta. Non ho cercato via di fuga. Mi sono annoiato amabilmente e altrettanto amabilmente mi sono addormentato. Tre normali giornate vissute nel Texas, provincia italiana, non più rurale, non ancora urbana. Qui Mariano si fa chiamare Oklahoma e Cristiano lo chiamano Paco. È evidente che questo è il confine tra gli Stati Uniti e il Messico. Siamo i nipoti di Pavese Fenoglio e ci sentiamo fratelli di Edward North, Kurt Cobain. 800240024 349-238-6666. Il pezzo che abbiamo mandato è un pezzo del film Texas, che parla proprio di quella zona del Piemonte, che non è proprio la mia, però è una zona del Piemonte che in qualche modo riconosciamo tutti, perché alla fine poi la provincia non è tutta uguale, però quello che si vive più o meno ha lo stesso sapore. Armando mi dice via SMS che la cosa che lo fa sentire a casa, che lo fa fare stare felice quando torna a casa, è andare a pranzo dalla nonna. Silvia, salire sulla bici e bere un caffè italiano, evidentemente anche lei non sta in Italia. Davide, fare un giro in bici su per le colline tra Castelvetro e Marano, sostare alle Tre Croci e ridiscendere. Dov'è Castel? Marano? Battaglia di Marano? Quelle Marengo. 349-238-6666. Dov'è Castelvetro e dov'è Marano? Chiara, passeggiare lungo il Po. Mauro, fare l'orto. Esther, mangiare i pizzoccheri. Prima della borsa, però, vorrei leggervi un pezzettino, visto che anche in Texas si parlava di Pavese. Perché Pavese non era delle mie zone, era del Piemonte quello vero, Cuneo, Alba, quella zona lì, le Langhe. Però forse perché l'ho letto sin da piccolo, e forse perché sento di appartenere un po' a quella zona lì. Ma per me, sentirmi a casa vuol dire anche rileggere queste parole. Io di quella spiaggetta nascosta mi ricordai a lungo. In fondo il mare così grande e inafferrabile non mi diceva granché. Mi piacevano i luoghi ristretti, che avevano una forma e un senso. Insenature, viottoli, terrazze, oliveti. Certe volte, appiattito su uno scoglio, scrutavo una scheggia grande come il pugno, che contro il cielo appariva un'enorme montagna. Queste cose mi piacciono. Questo pezzo è tratto da Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese, è un racconto che fa parte di un'altra raccolta, e dopo ve ne leggo ancora un po'. Sentiamo la borsa e poi Io sono qui. Io sono qui. Poi domenica sono successe due cose. Sapete come sono le mamme, no? Un po' come i papà per le figlie femmine. Quella spensieratezza un po' sconsiderata che si fa. E io che mi ero convinto che i gusti fossero mutevoli. Che quello che ci piace ci definisce. Dice chi siamo e quello che possiamo diventare. Ma voi, esattamente dove siete? Io sono qui è stata la storia di una vita riassunta in 10 mesi di programma, ma basterà una sola sera per ripercorrerla tutta. Giovedì 23 giugno alle 21, nella sede del Sole 24 Ore di Milano, Io sono qui live. Io sono qui live. Matteo Caccia ripropone e racconta una selezione delle migliori puntate della stagione. L'ingresso è gratuito. Per prenotare, inviate una mail a iosonoqui@radio24.it, indicando nell'oggetto 23 giugno e nel testo i nomi e il numero dei presenti. Non sono ammessi i minori. Io sono qui live, giovedì 23 giugno 2011. Un anno di diretta in una serata dal vivo. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao e sto qui. Nella foto di oggi siamo di fronte ad un arco in mattoni, proprio in mattoni a vista. È un arco moderno però, non è un arco antico, anche se la forma è quella di un arco, quindi sembra sempre tutto antico. In fondo a quest'arco c'è un'infilata di piante, giardini, e proprio in fondo il mare. Prima però c'è una specie di riquadro, è un'architettura strana, sembra una cosa fatiscente, pitturata di blu, è una cosa che ha qualche anno. Io ho la sensazione di sapere dov'è questa cosa, se non mi sbaglio questa cosa è sulla costa siciliana, sulla costa nord della Sicilia. Sono stati dati a degli artisti, gli hanno chiesto di fare come delle cornici che incorniciassero il panorama. Non sono sicuro, ma secondo me siamo qui. Luigi Germano, 43 anni, 12 giorni e una manciata di ore. Sono in compagnia di una sigaretta poco loquace, incastonata in un'architettura disegnata da un futurista un po' retrò. Vorrei cancellare una gru che è distante, scudo verso il mare, che mi sorride. Vicino, eppure sembra far parte di un altro universo. La terra è ferita da un nastro di auto, che fuggono lo sguardo. Io sono qui. Non ha detto dove siamo, però secondo me a giudicare dall'inflessione può essere Sicilia. Andate a vedere la foto, è sempre sul sito radio24.it, la pagina di Io sono qui. Credo sia addirittura in provincia di Messina questa cosa qua, non voglio esagerare, ma... Allora, a proposito di zone, Marano e Castelvetro sono in provincia di Modena, mi scrivono. Grazie per quando mi piace tanto quando mi dite le cose che non so. E poi invece i piccoli riti, le piccole cose che vi piacciono quando tornate a casa vostra. 800 024 0024, oppure come fa Massi che scrive al 349 238 6666, il rito della felicità per me è mettermi in mutande, spero solo in estate. e salire sul trattorino con mio nipote che urla e falciare il prato. Ancora Esther, mangiare i pizzoccheri. 349-238-6666. Però andiamo direttamente a sentirlo da qualcuno che ce lo racconta con la sua voce e andiamo da Lara. Pronto Lara? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Grazie per essere qui, Lara. Senti, raccontami, tu mi hai scritto, per me se mi sento a casa quando vado a fare una passeggiata nel bosco da sola. Poi sono tre le cose: stare seduta a guardare le montagne e fermarmi in giardino la sera insieme a mio papà. Raccontami dove siamo esattamente. Allora, quando torno a casa sono nella provincia di Vicenza. È un paesino che si chiama? Isola Vicentina. Isola Vicentina. Esattamente. Che sta a quanto da Vicenza più o meno, Lara? Saranno 13 chilometri. Ah, ok, cosa, ok. Più okay. o meno, sì, non è molto distante dalla città. E tu dove vivi però? Io però vivo a Treviso e da quando mi sono sposata 7 anni fa mi sono trasferita a Treviso. Il mio lavoro l'ho mantenuto sempre lì a Vicenza, quindi diciamo che faccio un avanti indietro abbastanza costante. Scusa, ma quant'è Treviso-Vicenza? Saranno un centinaio di chilometri. E ogni quanto torni a casa? Allora, io durante la settimana almeno 2 o 3 volte, mi fermo spesso però a dormire là, altrimenti non resisto. Tanto lavoro me lo porto a casa e il resto lo svolgo in ufficio quando me ne vado. E che lavoro fai, scusami Lara, giusto per far, visto che ci siamo nei fatti tuoi, facciamoceli fino alla fine. Ma sì, dai, avanti. Allora, dunque, io sono responsabile qualità e della sicurezza nella ditta dove lavoro. Quindi molte cose, ti dico, posso portarmele a casa, le procedure, tutte queste cose burocratiche. Sì. Il resto, vabbè, bisogna essere anche presenti, no? Quindi sì, beh, certo. Incontri, riunioni, varie cose. Senti, ma quando lo ascolti il programma allora, visto che... In podcast. Ah, in podcast. Ah, ok, perfetto. Senti, più delle volte in podcast, quando riesco. E il tuo babbo quanti anni ha? Mio babbo ha 70 anni, io lavoro con lui, quindi quando mi fermo... quei giorni, quelle tirate, insomma, spesso durante l'estate, magari alla sera, quando si rientra dal lavoro, ci fermiamo in giardino così a fare due chiacchiere. Quello sono bei momenti. Certo. Lara, senti, ti saluto, però tu ci sei il 23 di giugno, vero, qui a Milano, alla a serata? A Milano no, magari potessi. No, però vi seguirò. Brava, seguici, ne faremo qualcosa, sicuramente un podcast o una puntata. Lara, grazie mille e ti auguro grazie buona giornata. Grazie a te, Matteo. Ciao, grazie. Voglio leggere un altro pezzo, lo so che sono fissato con Pavese, ma è più forte di me. È sempre il diavolo sulle colline ed è sempre lui che parla delle zone in cui è cresciuto. E anche la collina del Greppo era un mondo. Ci si veniva per le coste, per conchi e pendii solitari, oltre il paese delle querce. Quando fummo sotto il versante, vedemmo gli alberi neri e luminosi della cresta stagliati contro il sole. Ma quello che stupiva però era il groviglio, l'abbandono. Dopo qualche vigna deserta, mangiata dall'erba, nella selva s'accavallavano piante da frutto, fichi e ciliegi coperti di rampicanti, salici e gaggie, platani, sambuchi. All'inizio della salita c'era un bosco di grandi carpini e pioppi tenebrosi, quasi freddi. Poi, via via che uscimmo nel sole, la vegetazione si alleggeriva, ma alle forme familiari si intramisero piante insolite come leandri, come magnolie, qualche cipresso e tronchi strani che non avevo mai visto, in un disordine che dava alle casuali radure l'aria di solitudini esotiche. C'è sempre un po' di commozione quando leggo Pavese, forse perché... aveva questa pesantezza anche lui ogni tanto. 800240024 349-238-6666. Andiamo da Maria José. Pronto? Ciao Matteo. Ciao, ho detto bene, Maria José. Perfetto. Perfetto. Sì. Di dove sei esattamente? Io sono di Jerez de la Frontera, nella Spagna, in Andalusia. Jerez de la Frontera, te lo so che te lo diranno tutti, perdonami, è sì. Dove c'è il circuito. Esatto. Ti chiedo scusa, l'ho sentito nel tuo sì che c'era quella roba. Sì, è esattamente lì. Da quant'è sì. Che sei in Italia? Sono qui da quasi 15 anni. Per amore? Sì, sono arrivata per amore. E ci sei rimasta poi. Per lavoro? Ci sono rimasta sì, dopo per lavoro e per altri motivi, sì. E che lavoro fai, Maria? Io sono una ballerina di flamenco e anche insegnante di flamenco. Quindi tieni dei corsi? Esatto. E fai anche delle serate? Anche sì, sì. E dove le fai? Lavoro. Beh, faccio in teatro, giro un po' tutta l'Italia, no? Quando... Ma dove sì, abiti? No. Ma dove abiti? Io abito a Verona. Ah. E quindi i corsi li fai lì e invece... Ma scusa, fai degli spettacoli tuoi? Sei anche coreografa? Anche, sì, sì, a volte capita di preparare anche degli spettacoli e Ma senti, ma hai un sito che si può andare a vedere? Hai qualcosa? No, c'è la mia pagina Facebook, se mai, ma... Che è, correggimi se lo leggo male, Maria José León Soto? Esatto, sì. Perfetto, quindi la pronuncia più o meno è giusta. Senti, esatto. Raccontami che cos'è per te tornare a casa, che cos'è quella cosa che ti fa sentire a casa quando ci torni? Tornare a casa per me è, sì, come, un po' come ho scritto, vuol dire tornare intera, tornare, sentirmi me stessa completamente, no? E tu mi hai scritto in particolar modo annusare i gelsomini, quindi però immagino che quando ci torni in primavera o in Andalusia ci sono gelsomini fioriti sempre. Ci sono molto tempo, molto parecchi mesi dell'anno ci sono in fiore. Senti, ma invece mangiare i semi di girasole così, proprio che puri. Noi li mangiamo, ma sono tostati. È un'abitudine che c'è in Spagna, anche nei paesi arabi, no? Che qua non c'è, è una delle cose che a me manca. Senti, ma invece, poi ti lascio andare, Maria, l'aspetto legato proprio alla tua lingua, al fatto che comunque tu qui parli, immagino per la gran parte del tempo, italiano, giusto? Certo. E questa è una cosa che chi non vive all'estero non conosce, il fatto che c'è quel suono, non è solo una questione di parole, è proprio una questione del suono della lingua, che quando torni ti fa dire, cioè quando passi la frontiera o quando atterri all'aeroporto ti fa dire, beh, sto a casa. Sono in casa, esatto, sì, la lingua è molto, molto importante, perché come dici te non sono solo le parole, l'accento torna alla tua infanzia. È quel suono. Ci dici la prossima data che fai, dove la fai, che magari qualcuno viene a vederti? Allora, l'importante, c'ho il 26 di luglio ad Ancona. Che cos'è? È un festival, una serata? Sarà, penso, in un teatro, adesso non so esattamente dove, ma penso che sia un teatro, sì, all'interno di qualche festival. Va bene, Maria José, magari io faccio rimbalzare il tuo profilo Facebook, che mi piace ogni tanto far sapere chi sono gli ascoltatori a tutti gli altri. Ti ringrazio moltissimo. Grazie mille. Ciao, buona giornata. Buona giornata anche a ciao, te, ciao. Ciao, grazie mille. 349-238-6666, credo che abbiamo praticamente finito anche oggi. Vi auguro un buon viaggio se state andando verso casa e se andate a godervi qualcosa di casa vostra. La giornata iniziò male. E benché io non sia un tipo superstizioso, credo che in giorni del genere la cosa migliore sia non accettare incarichi. Anche se la ricompensa ha 6 zeri sulla destra ed è esentasse. La giornata iniziò male e tardi, perché atterrai a Madrid alle 6:30. Faceva molto caldo. Durante il tragitto fino all'Hotel Palace dovetti sorbirmi uno sproloquio del tassista sulla Coppa Europea di calcio. Mi venne voglia di puntargli la canna di una 45 alla nuca per fargli chiudere il becco, ma non avevo attrezzi con me. E poi un professionista non se la prende mai con un cretino, nemmeno se è un tassista. Alla reception dell'albergo mi consegnarono le chiavi e una busta che aprii nell'ascensore. Dentro c'era la foto di un tipo che non mi piacque. Questo pezzo è tratto da un racconto di Luis Sepulveda che si chiama Diario di un killer sentimentale. Oggi è venerdì e, come tutti i venerdì, da qui alla fine, invece che uno dei vostri racconti, che continuano ad arrivarmi, e vi ringrazio, continuate a mandarli, io sono qui, @radio24.it, vi leggerò uno di questi racconti che sono pubblicati con la Domenica del Sole 24 Ore, tutte le domeniche, ovviamente, con solo 50 centesimi in più. In sostanza c'è ogni domenica un grande autore che pubblica un racconto breve, ma di solito molto belli. L'altra volta c'era Philip Roth, questa domenica ci sarà Luis Sepulveda, questo è Diario di un killer sentimentale. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?